c'è la luna piena, il ballo del pinguino, ma che bella invenzione, strusciamoci il bacino e intoniamo la canzone. E balliamo in Veneto, quattro passi di già già, tutti insieme lalli galli, e con la mano ciao ciao ciao. Ritmo latinoamericano e poi quello cubano, le mani sulle spalle, c'è il samba brasiliano. Se ci diamo una mossa avremo la riscossa, stasera siamo felici perché siamo tutti amici. E balliamo un tipitero sulle mani col pam pam, scurettiamo con la salsa e con la mano ciao ciao ciao. Forza tutti qua, l'aerobica si fa, sono io l'animatore che vi porta l'allegria, ma senti quanta musica si sta per decollare, facciamo gran casino, siamo pronti.